Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Signor Basenik, poiché ho un'enorme stima per il dottor Raidel, lei entrerà nel suo programma Full Immersion per il controllo della rabbia per 30 giorni. Ma se non si attiene strettamente a tutte le regole del programma, la spedisco per un anno nel penitenziario di Stato. Buongiorno a voi da Nicoletta. Oggi siete invitati a partecipare in diretta ad un singolare processo. Sul banco degli imputati è seduto il mal di testa. Il giorno dell'udienza non è stato scelto a caso. Molte settimane iniziano proprio con un cerchio alla testa. La ragazza mi ha lasciato, è colpa mia. Sono stato anche bocciato e non andrò via. Passerò tutta l'estate qui, compresi i lunedì. Quelli che odio di più non so mai così. Odio i lunedì. E se il lunedì vi fa scoppiare la testa, chiamateci subito 800 24 00 24, raccontateci il vostro punto critico, dove vi fa male. A volte il dolore si localizza intorno agli occhi, sulla fronte, in alcuni casi si sposta sulle tempie, prende il collo, si irradia sul viso, in particolare nella zona mandibolare. Questo può confondere le acque, ma noi, cari amici, vi aiuteremo a fare chiarezza. Ci aiuta oggi il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisa. Anna da Roma. Di Roma, buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, bentrovata a lei e agli ascoltatori. Il lunedì è un giorno critico. Ah sì, lunedì è un giorno critico, mi piace parlare oggi di questa corona di spine che riguarda dal 15 al 30% dei soggetti che sono presenti su questo mondo, che è il mal di testa e che il lunedì, specie nelle forme tensive, si può acutizzare. Ricordiamoci che è la malattia neurologica più diffusa nel mondo, una delle malattie più diffuse in assoluto dopo la carie dei denti. La prima causa di consultazione per dolore del medico, anche in età pediatrica. Insomma, allora proviamo a considerare il mal di testa un po' come l'araba fenice. Tutti sì. Sanno che esiste. Sì. Dove sia, da cosa origini, lo sanno in pochi. Allora, visto questa interessante proposta di fare il processo al mal di testa, organizziamolo così, chiediamo agli ascoltatori di iniziare un processo indiziario. Gli ascoltatori dovranno darci gli spunti, cioè i sintomi e il contesto, cioè la vita che fanno, in cui i sintomi compaiono. Noi dovremo trovare i mandanti. La sfida è questa, dimostrare che processare il mal di testa non è difficile e curarlo non lo è affatto. Allora, questa è una sfida che lanciamo. Assolutamente, 800 24 00 24 se volete intervenire, quindi dateci i vostri spunti, sintomi, il professor Barbanti troverà i mandanti. Intanto, quando la testa scoppia, cerchiamo di individuare tutti noi un ipotetico colpevole. Nell'attesa che siate voi a dirci che cosa pensate, che cosa vi passa per la testa quando la testa vi fa male, ve ne suggeriamo alcuni. Sarà colpa della sinusite. Perché mi fa male la fronte e quando mi abbasso o starnutisco scoppia la testa. Specie se non mi copro la testa quando fa freddo. È un problema di vista. Perché si scatena quando sto al computer e dal male mi lacrimano gli occhi. Sono gli ormoni. Perché mi viene solo con il ciclo. È tutta una questione di dieta. Cioccolato, formaggio, vino. Appena mi lascio tentare, la pago. Professor Barbanti, vuole aggiungere qualcosa? Ah sì, io aggiungerei una cosa che piace molto ai nostri pazienti, il sarà colpa della cervicale. La cervicale è un po' una specie di acqua santiera in cui si va a intingere la mano quando non si sa a scrivere un sintomo, una causa, dal vomito, la vertigine, al mal di testa. È la cervicale. Il paziente dice il dolore parte dal collo, poi da lì si diffonde magari alla fronte, poi magari vomita, quindi sarà il collo. Vediamo che il collo c'entra, ma molto spesso non c'entra. Insomma, sarà bene discuterne approfonditamente con i nostri ascoltatori. Potrebbe anche però essere sullo stress, che sappiamo batte in testa. Ma professore, come possiamo fare a capire se è davvero lui il colpevole o c'è dell'altro? Beh, innanzitutto è molto frequente che lo stress sia causa di mal di testa. Innanzitutto lo stress nasce dal cervello e prima di aggredire gli altri organi, pensiamo a le gastriti, le coliti su base nervosa o i problemi dermatologici su base stressante, proprio al cervello torna per dar fastidio. La cosa interessante è che ci sono mal di testa che compaiono quando lo stress va via, e questa è un po' la nuvola di Fantozzi, quando vai in vacanza compare la nuvola che bagna il tuo divertimento, e succede nell'emicranico. L'emicranico, quando leva il piede dall'acceleratore, si ferma da una settimana stressante, ha mal di testa. Viceversa, c'è un mal di testa in corso d'opera, cioè in corso di stress, e questo è quello tipico del lunedì, la cefalea di tipo tensivo, in questo caso compare proprio nel momento di massima acuzie dello stress. Situazione lo stress di cui molto spesso non siamo a conoscenza, se ne rendono conto le persone che lavorano con noi più facilmente. Professore, quindi il cervello possiamo paragonarlo a una zona a traffico limitato? Ah, certamente sì. Il cervello è una ZTL, perché è una zona che deve essere protetta da influssi non favorevoli, e il cervello dispone perlomeno di 5 varchi di accesso, 5 varchi d'accesso che sono i nostri 5 sensi. Se il soggetto è predisposto, qua mi rivolgo in particolare a quelli che hanno mal di testa nella zia, nella nonna, nel cugino, cioè gli emicranici, se l'accesso viene forzato da stimolazioni sensoriali eccessive, per esempio rumori stressanti, odori forti, gusti troppo intensi, luce violente, stimolazioni anche per esempio massaggi troppo profondi, ecco che in questo caso il cervello se ne accorge, e la contravvenzione che il cervello va a elevare a noi è l'attacco di mal di testa. Allora, professore, lavoriamo sui 5 sensi e sfruttiamoli per il nostro benessere. Iniziamo dal tatto. Massaggi e digitopressioni allentano le tensioni, naturalmente se non sono troppo intense. Fa anche un po' rima. Professor Tirelli, buongiorno a lei e bentornato. Sì, buongiorno Nicoletto e buongiorno a tutti gli ascoltatori e agli esperti. Docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. È lunedì, dobbiamo affrontare una settimana in cui saremo sottoposti a diversi stimoli, alcuni stressanti, le tensioni magari le abbiamo lasciate nel weekend, ma adesso ci dobbiamo buttare in un'altra settimana. Possiamo utilizzare il tatto a nostro vantaggio? E tatto inteso come contatto, e quindi digitopressioni, massaggi. Sì, infatti, proprio come diceva il professore prima. Non sentiamo più il professor Tirelli, è caduto. Professor Barbanti, invece, se lei è in linea, io andrei a sentire Andrea che ci chiama da Macerata. Intanto recuperiamo il professor Stefano Tirelli. Voi preparatevi con le dita pronte per eseguire i suoi esercizi. Andrea, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno, come dicevo alla collega, io convivo con il mal di testa oramai da anni. E non è un mal di testa che ha un punto di origine preciso, ma è un intorpidimento un po' generale di tutta la testa, parte dal collo, e la prima ipotesi che mi viene in mente è la cervicale. Però poi io una soluzione devo pur trovarla, certo, a questo mio problema, perché sinceramente non mi riesce di concentrarmi, non mi riesce, mi sembra di avere la vista appannata. Quindi non ha mai la testa completamente libera, quando ha la testa un po' pesante, magari un po' annebbiata, ha quella sgradevole sensazione che molti descrivono con mi sento in barca. Professor Barbanti. Ah sì, il quadro che definisce Andrea è un quadro abbastanza suggestivo di una cefalea di tipo tensivo cronica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che uno stress protratto di ordine psichico, di ordine psicologico o di ordine anche posturale ha lasciato accesi i sensori del dolore in tutta la testa. Andrea non riesce a capire da che parte cominci. Per la verità Andrea non riesce neanche perfettamente a dire se di dolore, di peso o di così rintronamento, come direbbero a Roma, si tratti. È una situazione che merita un controllo in un centro cefalee, perché esistono le cure di questa via finale comune, che è il sintomo che ha, e anche della causa che gliel'ha prodotto. Abbiamo ripescato il professor Tirelli. Professore, in linea? Sì. Buongiorno. Ecco, ribuongiorno. Possiamo aiutare, magari, non so se ha sentito anche il nostro ascoltatore che denunciava questa sensazione di annebbiamento, questo dolore che gli rende anche difficile la concentrazione. Anche per la medicina cinese c'è una lettura della cefalea. Sì, infatti, per quanto riguarda la medicina cinese abbiamo generalmente due grosse tipologie. Una è quella derivante da un forte stress che va ad interferire anche con l'apparato digerente, in particolare con lo stomaco, e l'altro sono gli iperstress dettati, stimolati da situazioni, per esempio, di ira, collera, nervosismi, tra virgolette, che non si possono decantare, in qualche modo far defluire. L'uno è collegato allo stomaco, ma l'altro generalmente al meridiano, al canale energetico del fegato e della cistifellea. Allora, due semplici pressioni che potrebbero alleviare, comunque aiutare la sintomatologia a diminuire, potrebbero essere fatte esercitando una pressione sul polso. La sì. Cosa migliore è guardarsi il palmo della mano, quindi guardarsi proprio l'interno della mano, vedere che se io la fletto verso di me si formano delle linee del polso. Esatto. Allora, al di sotto di quelle linee, circa due dita sotto, c'è un punto importante, si chiama tecnicamente meridiano del pericardio 6, ma che per noi è interessante sapere che attenua le nausee, attenua le situazioni proprio di cefalee, soprattutto quelle localizzate sulla fronte. È per intenderci quel punto che alcune società hanno brevettato, utilizzato, brevettando quei piccoli braccialettini che vanno a fare una digitopressione quando si va in aereo o quant'altro. Sì. Oppure va benissimo anche nelle cefalee, situazioni in cui proprio è l'apparato digerente, in quel caso, ad essere la concausa maggiore. Allora, fare una pressione di alcuni secondi, ma anche un automassaggio, e come diceva bene prima il professore, non è necessario fare un massaggio molto profondo e incisivo, perché comunque i punti energetici sono recettivi con sensibilità molto limitate, quindi io posso massaggiare delicatamente il polso e questo punto mi va veramente ad aiutare moltissimo in questa sintomatologia. Mentre invece mi capita la giornata, arriva il lunedì, dopo un weekend di riposo e il capo ufficio inizia a farmi arrabbiare piuttosto che, a quel punto il fegato inizia a macinare energia e io posso avere un punto di aiuto che è al lato del mio ginocchio. Se io prendo il mio ginocchio e vado verso fuori, verso l'esterno, sentirò che ci sarà un piccolo ossicino che spunta ed è il perone, proprio la testa del perone. L'ho trovato. Perfetto, allora io sento che ci sono delle piccole, degli avvallamenti e faccio un bel massaggio, anche in quel caso di circa 2-3 minuti, e questo è molto buono perché è un punto, si chiama tecnicamente vescica biliare 34, che attenua le tensioni muscolo-tensive. Allora è chiaro che un'emicrania che ha appunto il suo meridiano della cistifellea o vescicola biliare proprio a lato della testa ne beneficerà perché va a sbloccare questa tensione e di conseguenza ad allentare le tensioni muscolari. Quindi polso e ginocchio, questi sono i due punti utili da conoscere, da massaggiare, da stimolare senza farlo con troppa energia, ma delle digitopressioni leggere. Possono servire, professor Tirelli? Sì, sì, servono perché comunque sono, diciamo, appartengono alle indicazioni terapeutiche che si utilizzano negli istituti di clinica di medicina cinese in Oriente, ma appartengono anche a quelle situazioni in cui dobbiamo alleviare delle sintomatologie. E questi sono tra l'altro due punti che ci aiutano proprio a migliorare anche l'umore, perché hanno a che vedere anche con quello che in medicina cinese si chiama Shen, S-H-E-N, che vuol dire mente. Siccome spesso le problematiche anche di emicrania e cefalea sono un eccesso di pensieri, un eccesso di produzione, di preoccupazioni, questi sono due punti che svuotano un po' la testa, il che non fa mai male. Infatti, professor Barbanti, l'emicranico spesso non stacca mai la spina. L'emicranico potrebbe essere così paragonato ad un atleta di Coppa del Mondo di sci al cancelletto di partenza quando scruta la pista, l'avete mai visto? Pronto per esplodere in un rendimento eccellente e che forza a tenere dentro di sé la sua enorme risorsa. Il soggetto emicranico ha una caratteristica straordinaria, e cioè non si abitua mai, e questo è un grave deficit da un punto di vista energetico. Cos'è l'abitudine in neurologia? Se mi bussano 10 volte alla porta, 9 volte mi alzo e vedo che non c'è nessuno, la 10ª volta non vado più alla porta e quindi risparmio energia. Il soggetto meccanico tende a non abituare, detta in altri termini, si attacca un po' al tram ogni volta, spreca una grande quantità di energia, ma questo è frutto della sua eccezionale solerzia, inventiva, creatività, sensibilità, estro, chi più ne ha più ne metta. È una consolazione magra, ma è pur vero che l'emicranico spesso ha una marcia emozionale in più. Professor Tirelli, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Sì, volevo solo aggiungere una cosa velocissima. Sì, volentieri. Occupandomi di tecniche complementari sportive, in effetti, come diceva il professore prima, queste due digitopressioni le utilizzo molto sui miei atleti, proprio perché in fase di pre-gara, laddove ci dovesse essere un atleta eccessivamente nervoso, eccessivamente stressato, questi possono alleggerire portando il livello di stress ad essere funzionale e non deleterio per la prestazione. Quindi questi sono consigli validi non solo per chi soffre di mal di testa, ma anche per chi si sente particolarmente carico. Sì, eccessivamente carico. Eccessivamente carico. Grazie professor Tirelli, buona giornata. Grazie a voi. C'è una Nicoletta che mi chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Io sono un medico. Sì. Ma la mia storia è una storia che risale a quando avevo 5 anni, ai 5 ai 21 anni. Per giocare cercavo un mattone che avevano per disegnare per terra che avevano scassato in cucina, mi sfilai da sotto il lavello, non a sufficienza, e presi una terrificante craniata in sede occipitale, sì. Che mi lasciò per un giorno e qualcosa. Un po' rintronata. Rintronata, fu il nonno che disse ai genitori un po' straniti, è da portare in ospedale. Sì. Mi portarono in ospedale e lì cominciò uno stranissimo dolore per me, che ero una bambina di 5 anni, mentre mi portavano a braccia nei sotterranei di radiologia della clinica pediatrica, un mal di testa incredibile che mi prendeva l'occhio destro. Sì. E io poi cercavo di soffiarci sopra per cercare di alleggerire questo dolore, come se fosse possibile mandarlo via. Da questo prima ricordo successe che ogni volta che io andavo dalle suore, che il venerdì le suore cercavano di propormi il medaglione di tonno fritto, sì. Io con disperazione dicevo: vi prego, no, datemi del formaggio, perché a me questo fa venire il mal di testa. E loro? Loro naturalmente tetragone, pensando che io facessi un capriccio, mi davano il medaglione di pollo fritto. A quel punto io diligentemente, dopo mezz'ora, andavo in infermeria e dicevo: ho mal di testa, vomitavo come una disperata e poi chiedevo di poter dormire al buio senza rumori. Questo accadde più volte fin quando capirono che vabbè che un bambino è tetragono a volte. Sì. Però questo... Lei aveva questa sorta di avversione per il tonno fritto delle suore. Professor Barbanti, da una botta in testa, Nicoletta ci racconta una storia molto lunga e particolare in cui si mescolano influenze dei profumi, dei ricordi. Assolutamente. Beh, c'è da dire intanto che la collega milanese evidentemente era anche predisposta al mal di testa. In quel caso il trauma cranico ha evocato un mal di testa legittimo, cioè il cervello si è lamentato e attenzione, hai preso una grossa zuccata. Il problema è che ha slatentizzato evidentemente un tratto, perché poi il vomito è un sintomo emicranico, un tratto che spesso è genetico, che è quello dell'emicrania. E non sottovalutare due aspetti. E se non ho capito male, i medaglioni di tonno fritto li davano il venerdì, c'è già una settimana alle spalle. È possibile che, non so quanto contassero gli aspetti alimentari, ma gli aspetti stressanti anche di una cosa che non ti piace al termine di una settimana intensa di studio scolastico fossero proprio la situazione, e qui torniamo ancora allo stress iniziale, in grado di far detonare il suo mal di testa. Certamente profumi, gusti, odori e così via nel mal di testa possono avere un ruolo. E infatti noi andremo proprio attraverso, faremo un viaggio nei cinque sensi per capire come utilizzarli per il nostro benessere, come usarli come strumenti di prevenzione o sempre tra virgolette di terapia. Ma intanto, prima di andare ai mercati e poi di sentire le informazioni meteo, vi invito a sentire la nostra scheda. Testa a cadenze regolari oppure ti sorprende come la visita di un ospite sgradito? Il dolore compare periodicamente nello stesso punto? Oppure ultimamente ha cambiato sede o è diventato diffuso? La notte ti porta consiglio o cefalea? Se hai mal di testa, provi con un caffè o con un analgesico. Riesci a spegnere il dolore? Oppure ti rassegni e aspetti che passi? 800 24 0024. Adesso andiamo a sentire i mercati e il meteo, poi gusto, olfatto e i cinque sensi al nostro servizio per il nostro benessere. Essere e benessere. E siamo tornati insieme, in linea con noi abbiamo il professor Barbanti, oggi processo al mal di testa. Vi abbiamo invitato a provare a fare un processo indiziario, voi dateci i vostri spunti, cioè i sintomi, e il professor Barbanti e i nostri esperti troveranno i mandanti e vi dimostreranno che processare il mal di testa non è poi così difficile e curarlo ancora meno. Luisa, buongiorno da Milano, poi Maria Teresa da Bergamo e Maurizio da Bari. Benvenuta Luisa. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno professore. Allora, la mia storia è una storia lunga, da quando ero bambina, poi ho avuto un'interruzione quando ho sposata per i figli e dopo ho ricominciato con il mio bel mal di testa. Il bello che finalmente ho trovato un triptanico che mi ha è il farmaco che finalmente me lo calma e me lo toglie. E la cosa particolare secondo me è che il mio è un mal di testa spesso e volentieri, non sempre, che nasce di notte, di primo mattino, ma soprattutto col calo dello stress, cioè quando è sabato e domenica in vacanza, ecco che calato lo stress e quindi tutta la velocità di tutte le cose che si fanno, si fa vivo il mal di testa. Quello che il professor Barbanti paragonava un po' alla nuvoletta di Fantozzi. Professor Barbanti. Il caso della signora Luisa è un caso molto paradigmatico. Il calo dello stress, questa è la caratteristica tipica dell'emicranico, è come se l'emicranico si trovasse a avere la macchina spenta quando si ferma al casello autostradale, non quando magari percorreva migliaia di chilometri lungo l'autostrada. Il secondo aspetto, l'esordio di notte, tipico dell'emicranico. Quando il paziente dice ma sarà mica il cuscino, io ricordo che l'unico momento in cui il collo non funziona è di notte, perché il collo ha un solo compito, sorreggere la testa, e di notte ci pensa il cuscino. Un terzo elemento importante che dice la signora Luisa, la vita gliel'hanno cambiata i triptani. I triptani sono una categoria di farmaci rivoluzionari comparsi 20 anni fa che sono estremamente efficaci ed estremamente sicuri. Parlatene con il medico perché vi possono aiutare a migliorare drammaticamente la qualità della vita. Prima di dare la parola a Maria Teresa e a Maurizio, continuiamo il nostro viaggio attraverso i cinque sensi. Abbiamo parlato di tatto e arriviamo al gusto. Ci sono degli alimenti che possono, in chi è predisposto, scatenare il mal di testa, ma ci sono anche alimenti che hanno un effetto positivo, chiamiamoli amici per differenziarli dai nemici classici che tutti noi conosciamo, cioccolato, formaggio, vino. In linea con noi abbiamo il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano. Buongiorno professore. Oh, buongiorno a tutti. Ok, mi ha vista, ora posso andare. Ha appena cominciato, ho un mal di testa, mi ci vuole un caffè. Professore, dottor Speciani, il caffè è un classico, ma lei ci dirà di più. Oltre al caffè. Assolutamente, nel senso che... Che cosa abbiamo? Una volta, la cosa che mi sorgeva spontanea sentendovi parlare è che possiamo anche non distinguere solo tra cibi cattivi e cibi buoni, perché ci sono anche dei cibi ambivalenti. Parliamone. Ad esempio, il cacao. La gente dice, ah, mi è venuto, ho mangiato il cioccolato e quindi mi è venuto il mal di testa. Dall'altra parte, un cacao nero, buono, con il suo contenuto, ad esempio, che aumenta un pochettino il livello della pressione, del tono dell'umore, può addirittura essere un cibo positivo, no? Che quindi migliora complessivamente il rapporto con il mal di testa. Lo stesso molta gente dice, ma io utilizzo il pesce e mi viene il mal di testa perché è ricco di istamina, lo sappiamo. Dall'altra parte il pesce è anche ricco di omega 3, quindi riesce a rendere, come dire, a ridurre, ad avere un'azione antinfiammatoria e ridurre questa infiammazione che porta poi al mal di testa. Il caffè, l'abbiamo visto, è una situazione positiva che può dare degli ottimi benefici. E a me mi piace parlare delle spezie. Le spezie sono il gusto, sono il colore, sono vive, quindi il peperoncino, lo zenzero, la curcuma sono tra le sostanze che possono dare sapore ai nostri piatti e contemporaneamente, ormai è documentato anche dalla scienza più recente, che hanno un'azione globalmente di tipo antinfiammatorio, cioè da un lato danno sapore, ma questo è anche legato alla loro capacità di modificare proprio le risposte infiammatorie dell'organismo, quindi sono delle sostanze che messe nei nostri piatti possono aiutarci a ridurre globalmente il rapporto con il mal di testa, sia come azione acuta sia anche come azione preventiva. Quindi zenzero, peperoncino e curcuma. Buono, dai, direi che così mi sembra, diamo valore alla primavera, diamo assolutamente valore alla forza creativa delle persone. Grazie dottor Speciani, a prestissimo, buona giornata. Da Bergamo Maria Teresa, buongiorno a lei, benvenuta. Buongiorno, grazie per avermi chiamato, complimenti per la trasmissione. Ascolti, io volevo chiedere, il mio mal di testa parte o è associato da un formicolio al viso, soprattutto al centro della fronte, e poi ho anche formicolio per esempio alle labbra. Sì. E da qui si scatena un mal di testa che poi a volte dalla fronte mi prende l'occhio o l'orecchio. Quindi un mal di testa che si preannuncia, professor Barbanti, col formicolio al viso. Si preannuncia col formicolio e che cammina, si sposta. Se questo formicolio che la signora Maria Teresa dura abbastanza, cioè almeno una decina di minuti, la signora Maria Teresa ha un tipo di emicrania molto noto, si chiama emicrania con aura, che è dovuta al fatto che una zona del cervello, nel suo caso quella che controlla le sensazioni di una parte del viso, si accende quando dovrebbe stare spenta, a dimostrazione di quello che abbiamo detto prima, di come sia troppo solerte il cervello emicranico. Se questo è il suo caso, visto che poi viene fuori un mal di testa tipicamente emicranico intorno all'occhio, quello che deve fare la signora Maria Teresa è di provvedere a prendere un analgesico, parlandone con il medico magari è meglio, durante la fase del formicolio, perché quella è così breve verosimilmente che non potrà essere decapitata, ovviamente la sensazione, non la signora, con rapidità. Viceversa può essere decapitata la cefalea successiva, a patto che agisca rapidamente. Maurizio da Bari, buongiorno. Ci dà un altro sintomo? Partecipa al nostro processo indiziario? Avanti. Come imputato in realtà, nonostante faccia l'avvocato nella vita, con il mal di testa sono imputato. Allora, i miei sintomi sono ricorrenti ormai da 20-25 anni, al cambio di stagione o comunque quando sono particolarmente stressato, e comunque sempre al mattino, mai durante la giornata. La localizzazione del dolore è cambiata di poco negli anni, è passata dalla tempia destra all'interno dell'occhio, diciamo sotto l'arcata sopraccigliare destra. Ho anche consultato un neurologo che mi dicevano essere esperto, e oltre a dirmi di non mangiare frutta secca e stare attento ai pomodori, mi ha dato degli antidepressivi che io ovviamente non ho preso. Quindi mi appello al professore affinché mi dia un aiuto. Vede, da un avvocato da Bari, professor Barbanti, partecipa al nostro processo e chiede aiuto. Bene, bene, allora intanto diciamo all'avvocato di Bari che anche lui la comparsa del mal di testa rigorosamente al mattino sposta nettamente verso l'ipotesi di emicrania, che è ulteriormente suffragata dal fatto che il dolore gli capiti verso l'occhio nell'arcata sopraccigliare, il territorio di pertinenza della prima branca trigeminale. Quello che dovrei dire all'avvocato Maurizio sono due cose. La prima, butti via l'elenco dei cibi vietati, il buon senso invita a mangiare di tutto, e se mai ci fosse una singola cosa, tipicamente l'alcol, che dà fastidio, non sarà il medico a dirlo, ma il paziente a saperlo. E mi piace molto quello che ha detto prima il collega sugli alimenti, si deve passare da un'ottica di ciò che l'emicranico non deve mangiare all'ottica di ciò che l'emicranico anzi è meglio che mangi. Guardate, spezie, cose che possono agire paradossalmente favorevolmente sul dolore. Un'ultima piccola chiusura, gli antidepressivi. Verosimilmente a Maurizio è stata data la mitriptilina, che è nata come antidepressivo, ma come l'aspirina è nata come antifebrile e non fa più morire, o così si spera, di infarto e di ictus, così la mitriptilina, nata per l'umore, cura bene l'emicrania e il mal di testa. Essere e benessere. Ed eccoci di nuovo insieme, parliamo di olfatto. Alcuni profumi ci danno in testa e spesso scatenano il nostro mal di testa. Il naso degli emicranici sembra particolarmente sensibile, ma ci sono anche profumi buoni, terapeutici, professor Barbanti? Ah beh, direi di sì, alcune volte lo dicono i pazienti stessi, loro utilizzano molto spesso il balsamo di tigre. Cosa sia esattamente il balsamo di tigre io personalmente non lo so, certamente è un'essenza sostanzialmente canforata, il cui effetto locale si traduce in una variazione della temperatura anche di quella zona della testa, ma certamente emana anche un profumo, uno stimolo olfattivo, in questo caso favorevole, mentre invece gli stimoli olfattivi solitamente sfavorevoli, brutto a dirlo, sono i profumi. Gli emicranici raramente entrano nei duty free degli aeroporti perché questi profumi così insistenti e persistenti possono indurre il mal di testa, e non sono pochi gli emicranici che non si profumano. Un altro stimolo negativo può essere dato dall'odore che c'è all'interno delle macchine. Possiamo definirlo odore da macchina? Sì, c'è l'odore da casa nuova. Nei lunghi viaggi i pazienti emicranici possono scatenare attacchi, certamente anche per lo stress del viaggio, ma anche innescato da quel odore di tappezzeria che c'è spesso all'interno delle vetture. Ma il mal di testa può essere anche scatenato dal rumore oppure da quel fastidioso brusio di fondo. Chi lavora in un open space ne sa qualcosa, professor Barbanti? Sì, questo è un aspetto troppe volte sottostimato. C'è anche la tendenza in genere in molte società, in molte aziende, a ridurre le stanze a favore di grandi open space, e questo ha un effetto negativo sia dal punto di vista della stimolazione uditiva. Ricordiamoci, dicevamo prima, l'emicranico non abitua, quindi risponde, non è in grado di sopprimere un dolore, uno stimolo ripetitivo. Ogni volta lo avverte e ogni volta inconsapevolmente risponde badando quindi a questo tipo di stimolo. Certamente la situazione è ancora più amplificata se il rumore è quello, non so, dei grandi centri commerciali. Immagino qualche commesso o qualche commessa che viva quindi in una situazione proprio di stimolazioni, uditive, spesso anche olfattive, se sono negozi per la cura della casa o per la bellezza, e in questo caso certamente le occasioni di stimolo incominciano a moltiplicarsi. Ma ci sono però anche suoni che aiutano a rilassarsi, a ritrovare il benessere, come insegna la musicoterapia. In linea con noi abbiamo il dottor Fulvio Muzio, nutrizionista e musicoterapista. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, suoni per il nostro benessere, nota per farci stare bene. Esattamente, in questo senso, al di là di quello che si diceva prima, cioè che il suono può anche essere proprio un sottofondo di tipo fastidioso, a volte invadente, la musica peraltro, là dove invece è utilizzata nella sua accezione buona, è un vero e proprio linguaggio, quindi non meno importante di quello visivo, di quello corporeo e verbale, e in questo senso questo linguaggio ci comunica sensazioni e stati d'animo. Oltretutto la musica noi possiamo trovarla ormai dappertutto tutto e la usiamo in larga misura in ogni momento della nostra giornata, sia per caricarci durante attività fisica, per rilassarci, per distrarci dalle preoccupazioni e anche per emozionarci. E poi è dimostrato che la musica, dottore, è in grado di produrre benefici fisiologici attraverso il sistema nervoso vegetativo e anche psicologici attraverso la sua attività sul sistema limbico, e in qualche modo riduce l'ansia e migliora il tono dell'umore. Perfetto, assolutamente corretto, e proprio perché la musica ha questo tipo di influenza su parametri fisiologici come la pressione sanguigna, la respirazione, il battito cardiaco, la tensione muscolare, è chiaro che può essere anche utile in un trattamento delle cefalee, soprattutto di tipo muscolo tensivo. Senza contare che la musica stimola anche indirettamente la produzione di beta-endorfine, che sono un po' gli ormoni del nostro benessere, giusto? Esattamente, proprio grazie alla loro azione calmante e anestetica possiamo quindi ottenere uno stato di benessere che che noi regaliamo a tutto l'organismo. Grazie dottor Muzio per essere stato con noi. E io voglio salutare Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore all'Università di Milano. Alberto, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Proprio in chiusura abbiamo pochi minuti per occuparci di un problema che anche molti ascoltatori mi stanno scrivendo via SMS, è quello la fatidica mamma o mal di testa, non voglio andare a scuola, ed è un lamento che spesso è proprio si verifica il lunedì e i genitori non sanno se credere o non credere. Insomma, il mal di testa dei bambini viene spesso considerato un po' una scusa, Alberto. Sì, direi che magari per noi genitori diventa interessante usare la testa dei nostri bambini come una scatola misteriosa dentro cui si nasconde qualcosa. Se il mal di testa compare sempre in momenti specifici, cioè il lunedì, la mattina prima di andare a scuola, probabilmente lì dentro c'è un po' di paura a separarsi dalla mamma o dal papà. Se il mal di testa invece compare all'improvviso durante la giornata, i bambini dicono mi scoppia tanto la testa, mi sento proprio la testa che c'è qualcosa dentro che preme, ecco, lì è probabilmente qualcosa invece che è entrato nella testa dei nostri bambini e che bisogna pian piano aiutare a far uscire fuori. Ho proprio nelle ultime settimane visto un bambino di 10 anni che aveva visto un materiale pornografico su internet di nascosto e questa cosa qua gli premeva tantissimo nella testa e lui per 4 volte era tornato a casa da scuola nell'arco di 3 settimane, cosa mai fatta prima. Quando è riuscita a raccontare questa cosa ai suoi genitori, tutto il problema si è risolto. Ringrazio Alberto Pellai per essere stato con noi, il professor Piero Barbanti che ci ha aiutato a processare il mal di testa. Professore, grazie anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti, arrivederci. E ricordo che aprile è il mese della prevenzione dell'ictus e Alice Italia Onlus, l'associazione italiana per la lotta all'ictus cerebrale, promuove in 5.000 farmacie italiane screening gratuiti dei principali fattori di rischio. Per vedere l'elenco www.aliceitalia.org troverete tutte le informazioni del caso. Per oggi è tutto, vi saluto e vi do appuntamento a domani. Essere e benessere.